na na nu na na na nu na na na nu na na na nu na dolce riposo sei amico mio quando io sono con te tenero amore la tua bontà la tua carità avvolgono di bene il mio cuore io vivo in te io vivo in te io vivo in te amico mio tu vivi in me Na na nu na na na nu na na na nu na na na nu na felice in te sarò amico mio risplenda la tua luce e vivi con me Io riposo in te, nel tuo cuore, felice io sono, tu vivi in me. Io vivo in te, io vivo in te, io vivo in te, amico mio, tu vivi. Amico mio, tu vivi in me. Amico mio, tu vivi in me. Amico mio, tu vivi in me. Amico mio, tu vivi in me. Amico mio, tu vivi in me. Amico mio, tu vivi in me. Io vivo in te. Amico mio, tu vivi in me. Io vivo in te. Amico mio, tu vivi in me. Amico, tu vivi in me. Io vivo in te. Amico, tu vivi in me.